fatti avanti, che cosa aspetti? Questo è il bicchiere sopra il bar di casa mia. Siediti pure, racconta le dure, quelle cose che ti annientano a metà. C'è chi dice che non hai niente da fare, passi il tempo a giocare. C'è chi dice ma non sa il nostro mondo virtuale ci aiuta a stare bene. C'è chi dice, c'è chi fa troppi discorsi. C'è chi dice, c'è chi dà mille sospetti. C'è chi dice non si fa i cazzi suoi. C'è chi dice che dirà sono a pezzi. Non te ne accorgi, ho il campionato da finire, fermi un po', che porto tutti, ma tu ti lamenti, difendere bene, che responsabilità, ma si dice che non sai nemmeno amare, che si vanno a inventare. Chi lo dice non lo sa, il nostro mondo virtuale ci aiuta a stare bene. C'è chi dice, c'è chi fa troppi discorsi. C'è chi dice, c'è chi dà mille sospetti. C'è chi dice non si fa i cazzi suoi. C'è chi dice che dirà, c'è chi dice che dirà, faccio avanti che non aspetto. Dammi un bicchiere sopra il bar di casa tua, mi siedo pure, racconterò dure quelle cose che mi annientano a metà. C'è chi mi dice che non ho niente da fare, passo il tempo a giocare. C'è chi dice, c'è chi fa troppi discorsi. C'è chi dice, c'è chi dà mille sospetti. C'è chi dice non si fa i cazzi suoi. C'è chi dice, c'è chi fa troppi argomenti. C'è chi dice, c'è chi dà. C'è chi dice, non lo sa. C'è chi dice, morirà.